qué importancia ha. E tu guardami in faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno dei suoi giorni. Ma io e te ci incontriamo nella mente, nessuno ci sente. Ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, e allora resta, resta con me, ah, resta, resta con me qui sul mio cuore. Se mi avresti cercato, se mi avresti lasciato. My name, your name, messi vicini per caso, nel blu su quel biglietto che non ti ho mai dato. Oh, ci vuol talento per chiamarlo amore. Se chiudi gli occhi ti scoppia il cuore, e allora resta, resta con me, oh, resta, resta con me, oh, resta, resta con me, oh, resta, resta con me qui sul mio cuore.